Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il finanziere modello deve essere sicuramente un cittadino non avulso da quello che è il contesto che lo circonda, nel senso noi prepariamo i nostri giovani soprattutto a che siano ispirati a sani principi e a che nel momento in cui lasciano gli istituti possano subito immettersi nel circuito a loro affidato, ma soprattutto che siano pronti ad affrontare le difficoltà che si presentano. Ecco l'identikit del finanziere modello, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. A descriverlo è Vito Pardi in un'intervista ad Antenna Sud nel 2012. Vito Pardi, 63 anni, comandante in seconda del corpo della Guardia di Finanza, oggi si è saputo indagato per corruzione perché avrebbe intascato delle mazzette insieme a un altro alto ufficiale della Guardia di Finanza, e poi ne parleremo. Insomma, non ci lasciano mai annoiare, ogni giorno si scoperchia qualcosa e ne vengono fuori altro che vaso di Pandora. Anche qui naturalmente poi si starà a vedere come si evolve questa indagine, però diciamo che quasi non passa giorno ormai. E che cosa ha detto oggi il presidente dell'Autority Anticorruzione Raffaele Cantone? Il nostro potere di controllo si scontra con difficoltà oggettive, abbiamo solo 26 persone e dopo l'attività istruttoria non possiamo irrogare sanzioni, quindi quello dell'autorità oggi è un potere monco, insomma possiamo stare sereni citando qualcuno. Direi che per voi ce ne sono di temi in abbondanza, sia per la pagina Facebook di Effetto Note per commentarla lì, sia per i messaggi al 349-238-6666 che finalmente stasera funzionano ancora. A proposito della responsabilità civile dei giudici, sapete che oggi c'è stata un po' di bagarre in Parlamento, anzi il governo è proprio andato sotto, è stato battuto per 7 voti. Che ne pensate di questo argomento? Io intanto vi elenco gli altri. A partire naturalmente dalla responsabilità civile delle toghe, passa un emendamento della Lega, governo battuto per 7 voti, insorgono Associazione Nazionale Magistrati e Consiglio Superiore della Magistratura, e Renzi commenta: correggeremo in Senato. Verifiche fiscali pilotate, arrestato un ufficiale della Guardia di Finanza per mazzette volte a evitare controlli a Napoli, indagato il comandante in seconda Bardi. Usura rinviata a giudizio in Campania Mussari e Vigni. Iraq sempre più preoccupante, inarrestabile l'avanzata dei jihadisti dopo Mosul, prese Ninive e Tikrit. Mare Nostrum e migrazione, mozione della maggioranza di governo per un exit strategy. Intanto si segnalano 12 migranti caduti in mare durante un'operazione di salvataggio. Rai, lo sciopero oscura la TV pubblica, proteste dirette saltate, per il sindacato l'adesione è stata altissima. All'Italia il ministro Lupi comunica che nel piano di Etihad ci sono 2251 esuberi, e per il calcio domani partono i mondiali in Brasile. Pirlo da oggi bianconero sino al 2016, commenta: possiamo vincerli. Partiamo quindi dall'emendamento sulla responsabilità civile dei magistrati che oggi ha mandato sotto il governo di 7 voti alla Camera, proprio nei giorni caldi delle inchieste sulla corruzione. Oggi ancora altre, una tempesta in un bicchiere d'acqua, l'ha definita il presidente del Consiglio Renzi da Pechino, e Napolitano ha detto: l'indipendenza dei magistrati non è un privilegio. Passa per 7 voti di differenza, 187 a 180, l'emendamento della Lega che introduce di fatto nella legge comunitaria il risarcimento per chi ha subito un danno ingiusto per il comportamento di un magistrato. Un esito a sorpresa, quello della Camera, vista la contrarietà di governo e maggioranza, complice il voto segreto e a questo punto l'evidente intervento di diversi franchi tiratori astenuti 5 Stelle ed alcuni deputati di SEL. Che qualcosa potesse accadere però era nell'aria, così l'appello del leghista Gianluca Pini poco prima del voto. Vi chiedo, visto che il voto è segreto, veramente di votare in coscienza e di ripetere lo stesso tipo di voto che si è visto nel 2 febbraio del 2012 in quest'Aula. Grazie. A favore della responsabilità civile dei giudici, e per questo poi al centro delle critiche del suo partito anche il deputato del PD Roberto Giachetti. Non vi è stato ovviamente un dibattito nel gruppo nel quale io avrei espresso il mio dissenso. Ecco, io non ho intenzione di trincerarmi dietro il voto segreto e volevo annunciare che voterò a favore dell'emendamento della 9 Pini. Voto quello della Camera che viene bocciato però dall'Associazione Nazionale Magistrati, presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale ed è grave e contraddittorio, spiegano dall'ANM, che si indebolisca l'azione giudiziaria proprio mentre la magistratura è chiamata a un forte impegno contro la corruzione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sminuire e correggere l'incidente di percorso alla Camera sulla responsabilità dei magistrati viene giudicato una tempesta in un bicchiere d'acqua da Matteo Renzi. Il voto segreto è occasione di trappoloni, avrebbe detto ai suoi, ma le reazioni sono esagerate. Il Premier è convinto che la norma sarà modificata al Senato con scrutinio palese. E arriva anche il monito di Giorgio Napolitano. Per il Capo dello Stato la tutela dell'indipendenza dei giudici non è un mero privilegio. Sul fronte politico nega divisioni nel PD il Presidente della Commissione Giustizia Donatella Ferranti, che però sottolinea i rischi del voto. È un messaggio politico, perché nel momento in cui la magistratura è impegnata nella lotta contro la corruzione, oggi si introduce una norma che ha tra l'altro un valore di contrasto alla Costituzione, perché la responsabilità diretta è ovvio che incide sull'autonomia e indipendenza della magistratura. Esulta il Movimento 5 Stelle, che si è astenuto proprio per mostrare le spaccature dei democratici. Francesca Businarolo. Abbiamo svelato agli italiani e ai cittadini la verità. Il governo Renzi a ogni decreto legge chiede la fiducia e c'è un motivo. Non ha la maggioranza all'interno del Parlamento e oggi con la nostra astensione l'abbiamo dimostrato. Da parte di Forza Italia invece soddisfazione per la norma approvata. Gianfranco Chiarelli. Penso che sia uno dei primi tasselli per una riforma importante della giustizia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi ne parleremo proprio con Giachetti e con un esponente del Movimento 5 Stelle. Voi che cosa ne pensate? Deve esserci questa responsabilità civile dei magistrati? Hanno votato nel modo giusto oppure dovrà essere corretta poi in Senato, come ha già annunciato Renzi? Comunque poi ne parleremo con dei diretti interessati, ma anche voi se volete esprimere le vostre opinioni al 349-238-6666 oppure come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Passiamo però alle inchieste. Mentre emergono legami tra le inchieste Expo e Mose per il coinvolgimento di una ditta in entrambi i lavori, Angelo Paris, ex direttore dei lavori di Expo, è da oggi ai domiciliari, mentre resta in carcere l'imprenditore Maltauro. A Venezia le indagini proseguono, a Roma sono arrivati in Parlamento gli atti su Galan. Sentiamo allora al microfono di Elisabetta Fiorito Mariano Rabino, di Scelta Civica, relatore della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio. Noi adesso abbiamo davanti di nuovo giorni di approfondimento e di lettura. Io avevo incominciato pensando che fossero più che sufficienti le letture delle oltre 700 pagine dell'ordinanza del GIP. Adesso invece sono arrivati 18 faldoni, tutti i documenti su cui il GIP ha lavorato. Ci diamo qualche giorno per poterli visionare, sono documenti riservati. Nei prossimi giorni decideremo insieme al Presidente della Giunta La Russa e al deputato indagato Galan quando sentirlo, quando promuovere la sua audizione, in modo che nelle prossime settimane noi si possa veramente formarci un giudizio compiuto, inequivocabile, sulla richiesta di autorizzazione a procedere per l'ordinanza di custodia cautelare del deputato Galan. E da Napoli c'è una nuova indagine, vi anticipavo all'inizio, che coinvolge la Guardia di Finanza, indagato il comandante in seconda. Torna per la seconda volta nel registro degli indagati della Procura di Napoli il nome del generale Vito Bardi, oggi comandante in seconda della Guardia di Finanza, già capo delle Fiamme Gialle in Campania e dell'Italia Meridionale. Nel 2011 era stato prima accusato di favoreggiamento e rivelazione di segreto nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta P4, poi la sua posizione fu archiviata su richiesta del PM. Questa volta l'ipotesi di reato è corruzione. I magistrati Piscitelli e Woodcock hanno richiesto diverse perquisizioni, tra cui una presso il Comando Generale a Roma, negli uffici di Bardi. A quanto pare l'accusa si riferisce a vicende collaterali all'indagine che ha portato in carcere il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Livorno Fabio Massimo Mendella e il commercialista napoletano Pietro De Riu. Per evitare o modificare gli esiti negativi delle verifiche fiscali, alcuni imprenditori napoletani hanno pagato mazzette per oltre 1 milione di euro riscosse dal commercialista per conto di Mendella e di altre persone in corso di identificazione. Per loro i magistrati partenopei ipotizzano i reati di concorso in concussione per induzione e di rivelazione di segreto d'ufficio. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Intanto il governo lavora alle misure anticorruzione da presentare venerdì in Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno anche il decreto sulla pubblica amministrazione improntato ai tagli. I dipendenti pubblici, si è saputo nel tardo pomeriggio, potranno essere spostati senza assenso in un posto di lavoro diverso, purché sia nell'arco di 100 chilometri. Nella bozza di riforma si sottolinea che entro 50 chilometri le diverse sedi sono considerate stessa unità produttiva, mentre tra 50 e 100 km devono esserci esigenze organizzative e produttive. Usura. Il GIP di Vallo della Lucania ha rinviato a giudizio l'ex presidente del Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Mussari, e l'ex direttore generale Antonio Vigni per il reato di usura bancaria. La decisione è stata presa in un procedimento avviato dopo l'esposto di un cittadino di Agropoli, in provincia di Salerno. Prosegue il viaggio intanto di Renzi in Cina, ha ricevuto i complimenti per le riforme da parte del presidente cinese, col quale ha parlato di Expo. Poi, a sorpresa, un faccia a faccia di Renzi a Pechino con Tony Blair. Renzi ha concluso degli accordi commerciali significativi anche oggi. E poi l'immigrazione Mare Nostrum. Il governo si impegna a verificare ogni iniziativa che consenta il superamento dell'operazione Mare Nostrum, doverosa risposta emergenziale, ma che non può in alcun modo costituire la soluzione definitiva. Questa è una delle richieste della maggioranza in una mozione discussa oggi al Senato, che di fatto impegna il governo a individuare un exit strategy. Insomma, ne vogliono uscire da questa situazione che, diciamo, in qualche modo grava solo sull'Italia. 12 migranti intanto sono caduti in mare e risultano ufficialmente dispersi durante un salvataggio avvenuto ieri nel canale di Sicilia. L'incidente è avvenuto durante il trasbordo da un gommone a una motonave maltese. All'Italia, a proposito dell'accordo con la compagnia Etihad e gli esuberi prospettati, il ministro Lupi oggi ha detto: nel prospetto presentato ci sono 2.251 esuberi, di cui 187 lavoratori in cassa integrazione a zero ore, che saranno in cassa integrazione sino a marzo 2015, 380 del personale di volo, 1.084 di quello di terra. Per quanto riguarda l'estero, l'Iraq nel totale caos, di questo parleremo poi, sarà un argomento che va approfondito per capire davvero che ne è di questo paese devastato. E invece, ritornando in Italia, sciopero della RAI oggi. È stata una giornata importante per i lavoratori, per la difesa del servizio pubblico, così dicono i sindacati. Le percentuali di adesioni allo sciopero sono altissime, nessuna unità produttiva a meno del 65%, lo riferisce il segretario del SIC CGL Massimo Cestaro. E non è stato l'unico stop di oggi, protesta europea dei tassisti contro l'applicazione Uber. Ne abbiamo parlato ieri, quindi evitiamo di parlarne ulteriormente oggi. A Milano, auto bianche ferme fino alle 22. E adesso invece una commemorazione. 30 anni fa moriva Enrico Berlinguer. Per ricordarlo, il presidente del Senato Grasso ha detto che si faccia subito una nuova legge anticorruzione. Intanto molte le iniziative per ricordare lo storico leader del PC. I partiti al governo ritengono che sia quasi un loro diritto decidere qui a Roma come distribuirsi gli incarichi. Era il 1981 e Enrico Berlinguer a Tribuna Politica sollevava il problema della questione morale. Il 28 luglio dello stesso anno, in un'intervista, Eugenio Scalfari l'avrebbe definita come la questione politica prima ed essenziale. La corruzione dentro i partiti, il ritorno a una politica come bene comune, argomenti che hanno segnato il percorso politico di Berlinguer. Per onorarne la memoria bisogna fare subito una nuova legge anticorruzione, ha detto il presidente del Senato Piero Grasso, secondo cui le parole di Berlinguer sono ancora attuali. Lavorate tutti, caro mercato, azienda per azienda, brava. Sudato, con gli occhi offuscati e un ictus in corso, Enrico Berlinguer visse gli ultimi anni della sua vita parlando ai compagni dal palco di Padova. Morì quattro giorni dopo, l'11 giugno del 1984. Quell'anno alle europee il PC si attestò per la prima e unica volta nella storia repubblicana come primo partito, con il 33,3% dei voti. Per ricordarlo, a Montecitorio sarà inaugurata una mostra, in suo onore è stato emesso un francobollo e a Roma gli è stata intitolata una piazza a due passi da Via delle Botteghe Oscure, dove si trovava la storica sede del PC. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima del calcio, vedo che è arrivata un'agenzia tutta stellata, un dispaccio di agenzia. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che annulla le nozze se uno dei due coniugi cambia sesso nella parte in cui consente, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata. Alla base di questo c'è un caso di una coppia di Bologna. Insomma, dice la Corte Costituzionale, perché mai si dovrebbe annullare un matrimonio perché uno dei due cambia sesso? Se si vogliono bene, vogliono stare insieme. Per il calcio invece vi anticipo che Pirlo assicura che gli azzurri possono vincere i mondiali. Poi ci collegheremo direttamente col Brasile per capire quanto è alta questa probabilità, se mai qualcuno la possa prevedere. Lo leggo dopo uno dei vostri messaggi sulla responsabilità civile dei magistrati. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Allora, siete pronti? Tra pochissimo affronteremo il tema della responsabilità civile dei magistrati in seguito al voto che c'è stato oggi in Parlamento, che ha un po' scombinato le previsioni della maggioranza, naturalmente. Adesso vi ricordo quali sono state le notizie più importanti di oggi, anche se ricordatevi alle 21 dovete accendere per sentirle tutte, e vi ricordo anche che domani e dopodomani vi lascio e vi affido a una collega, Piera Ceci, perché non ci sarò per due giorni, ci risentiamo poi lunedì, ma adesso concentriamoci sulle notizie di oggi. Statale, mobilità entro 100 km e tagli ai permessi sindacali. Queste sono alcune delle novità. Sia la responsabilità dei giudici, il governo va KO di 7 voti sotto, PD si spacca, Napolitano dice l'indipendenza delle toghe non è un privilegio. Verifiche pilotate, indagato il numero 2 della Guardia di Finanza, pressing sul governo per l'Expo e venerdì decreto legge anticorruzione. La mano della Jihad sull'Iraq, l'Iraq completamente nel caos, fuga dei civili da Mosul. Poi lo sciopero che oscura la RAI, proteste e dirette saltate. Oggi conto alla rovescia per il mondiale, Brasile teme il caos, incubo sicurezza al debutto, e l'Inghilterra critica il campo. Ma adesso vi dicevo, quindi affrontiamo l'argomento, appunto della responsabilità civile dei magistrati. Vi riepilogo un po': il governo e la maggioranza sono stati battuti in un voto a scrutinio segreto alla Camera oggi nell'esame sulla legge europea 2013 bis sulla responsabilità civile appunto delle toghe. Infatti è passato un emendamento della Lega con primo firmatario Gianluca Pini, a cui il governo e il relatore avevano dato un parere contrario. L'emendamento riscrive l'articolo 26 sulla responsabilità civile dei magistrati, inasprendo di fatto le pene nei confronti dei giudici. Bene, il governo è stato battuto, è andato sotto di 7 voti, 187 sì, 180 no. Il Movimento 5 Stelle, come diversi deputati di SEL, si è astenuto sulla votazione, il cui esito è stato salutato invece con un applauso da Lega e Forza Italia. Allora, tra poco parleremo con i protagonisti, Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera e onorevole del deputato del PD, è stato l'unico di quelli che hanno votato all'interno del PD a scrutinio segreto, vi ricordo, a dichiarare apertamente, lo avete sentito prima, che ha votato a favore di questo emendamento. Poi lo sentiremo, volevo guardare qualcuno dei vostri messaggi, per esempio Domenico sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: non ci vedo nulla di male, quante persone si sono viste iscritte nel registro degli indagati, rinviate a giudizio e magari condannate ingiustamente, almeno così si eviterebbe l'apertura di fascicoli con tanta discrezionalità. Vabbè, allora parliamone. Buonasera onorevole Roberto Giachetti. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Giachetti, allora lei oggi ha fatto arrabbiare un po', diciamo, la gran parte del PD, non tutti perché diversi hanno votato con lei per questo emendamento, però lei è l'unico che l'ha detto chiaramente, con voto palese: io voto per la responsabilità dei magistrati, per questo emendamento della Lega. Mi spiega perché? Ma guardi, io diciamo questa battaglia la conduco da una trentina d'anni, io ho raccolto le firme per il primo referendum che fu fatto dai radicali negli anni 80 e che raccolse più dell'80% del consenso della popolazione. Ho ancora firmato i requisiti referendari di qualche mese fa dei radicali, purtroppo non sono state raccolte le firme, e quindi mi sembra risibile che di fronte a una cosa del genere io mi trinceri dietro il voto segreto. Ho preso la parola in aula e ho detto esattamente quello che penso e di cui sono convinto da 20 anni a questa parte. Penso che sia stata la cosa più normale che si possa fare in un momento del genere. Questo sì, quindi secondo lei i magistrati, come dice questo emendamento, nel caso di un intervento sbagliato, di un provvedimento sbagliato, devono riparare i danni, devono risarcire i danni? No, mi consenta però, vede, lei anche dicendo... No, ce lo spieghi lei. No, sì. Non è un intervento sbagliato, stiamo parlando di dolo o colpa grave, sono le uniche, è l'unica configurazione nella quale si prende in considerazione l'ipotesi di una responsabilità civile, non per degli errori come quelli che si commettono in qualunque lavoro, in qualunque professione si fa. Stiamo parlando di dolo, cioè una volontà, chiaro, o colpa grave. Quindi è una fattispecie molto ristretta. Mi consente anche di dire che io penso di avere molto più fiducia nei giudici di quanto non ne abbiano loro tra di loro, perché non è che l'eventuale responsabilità civile viene stabilita da un tribunale del popolo o dalla Camera dei Deputati o dal Senato della Repubblica, saranno dei magistrati a stabilire se effettivamente c'è stata una responsabilità, ripeto, per dolo o per colpa grave. È un ambito abbastanza circoscritto. Onorevole Giachetti, però per tutti quelli che ci stanno ascoltando, sono moltissimi come le puoi immaginare, facciamo un esempio molto chiaro, molto semplice. Ma guardi, quando il primo referendum che fu fatto a seguito di un caso clamoroso che purtroppo ci porteremo appresso nella storia, non negli anni. Tortora? È quello di Enzo Tortora. Ora, diciamo, a seguito delle vicende che hanno riguardato Enzo Tortora, e come sappiamo è stato assolto, eccetera, eccetera, il percorso è stato che Tortora è stato in galera indebitamente, appagato e anche morto, e i magistrati non solo non hanno pagato nulla, ma sono stati promossi, perché uno è andato a fare il procuratore generale a Salerno e l'altro è finito al Consiglio Superiore della Magistratura. Domando a lei e agli ascoltatori, è normale questo? Le porto un caso più recente. Sì. Qualche mese fa è uscita la notizia sui giornali di un povero, mi pare che era del Bangladesh, malato, in dialisi, che è accusato 10 anni fa di essere uno compromesso con il traffico di clandestini. Se non sbaglio era Ingroia il sostituto procuratore che lo ha accusato, è stato incarcerato per 10 anni. E qualche mese fa è stato rimesso in libertà perché era un caso di omonimia. Domando a lei e agli ascoltatori, c'è una persona che è stata 10 anni in carcere per omonimia? In 10 anni non era possibile verificare se effettivamente questa persona, peraltro anche handicappata, poteva organizzare un traffico di clandestini? Ecco, è giusto o no che in casi di questo tipo, non stiamo parlando, ripeto, di errori che è ovvio che possono essere commessi e che non sono minimamente contenuti nella norma di cui stiamo parlando, è giusto o no che qualcuno paghi per questo quando si mette in gioco anche la vita delle persone? Onorevole Giachetti, però il ministro della giustizia Orlando, che è PD, ha detto che questo è un pasticcio che non aiuta ad affrontare seriamente il tema, che va quindi rapidamente corretto, e lo stesso presidente del Consiglio Renzi ha detto poi al Senato questa norma sarà modificata. Io rispetto assolutamente quello che dicono sia il Presidente del Consiglio che il Ministro della Giustizia. Segnalo che una considerazione esattamente simile a quella che fa oggi il Ministro della Giustizia è stata fatta 2 anni fa, perché 2 anni fa ci siamo trovati esattamente nella stessa situazione. Emendamento dell'onorevole Pini, votato dalla Camera, e allora ci si spiegò che dovevamo votare contro quell'emendamento perché era prossima a una riforma della giustizia complessiva e organica che avrebbe tenuto dentro anche l'esigenza di affermare il principio della responsabilità civile dei magistrati. Sono passati 2 anni e non è stato fatto assolutamente nulla. Ovviamente io rispetto le opinioni di tutti, sono stato chiamato a prendere una decisione con un voto e ripeto, ci ho messo la faccia. Mi dica una cosa, quello che l'attacca un po' più pesantemente non viene tanto dal PD ma da Scelta Civica, Stefano D'Ambrosio, che ha detto: il voto alla Camera sulla responsabilità civile dei magistrati rappresenta un pericoloso e clamoroso incidente di percorso per la maggioranza che sostiene il governo Renzi, puntando il dito contro il renziano Giachetti, che si è reso promotore dell'approvazione di una norma così devastante per la risposta giudiziaria in Italia. Guardi, Giachetti vale uno su 630, mi pare che la maggioranza di questo voto dimostra che ci sono state 187 persone che hanno votato in un determinato modo, quindi attribuire la responsabilità, non credo di avere questo straordinario seguito dentro l'aula della Camera dei Deputati. Per quanto riguarda il questore D'Ambrosio, diciamo, io rispetto le opinioni di tutti, diciamo anche quelle di un questore che si è reso noto per aver preso a schiaffi una deputata in aula. L'immagine ce l'abbiamo ancora davanti, però vabbè, sono questioni differenti. Ecco. L'immagine ce l'abbiamo ancora davanti, appunto, anche se sono questioni differenti. Ognuno poi risponde di quello che fa. Però mi dica un'ultima cosa, Giachetti. Anche l'Associazione Nazionale Magistrati, il Consiglio Superiore della Magistratura, hanno detto questo è una norma illegittima e soprattutto rischia di condizionare l'indipendenza dei giudici. Come risponde brevemente? Anche qui io rispetto moltissimo tutti, segnalo che l'ANM pone questo tema della indipendenza e dell'autonomia della magistratura violate in ogni occasione. Qualche settimana fa erano violate l'autonomia e l'indipendenza della magistratura perché è stato proposto un taglio agli stipendi equiparandoli a quelli del Presidente della Repubblica come per tutti i manager pubblici. 2 anni fa, quando io feci la battaglia contro i fuori per una regolamentazione dei fuori ruolo che hanno 2 stipendi e 2 incarichi, mi è stata detta la stessa cosa. Io rispetto tutti, intanto stiamo parlando di una diciamo organizzazione, a me sarebbe piacerebbe molto sapere come la pensano poi i magistrati al di là delle organizzazioni, e poi io rispetto tutti, però io ho la mia opinione, siccome le leggi tendenzialmente le fa il Parlamento, io penso di fare quello che è nel mio dovere qui in aula. Giachetti, quanti hanno votato come lei nel PD? Non lo so, perché a scrutinio segreto questo è impossibile stabilirlo, è tutto evidente. Ho sentito dire che ci parla di alcune decine di deputati, quindi probabilmente questo dovrebbe far riflettere anche che dentro il Partito Democratico un dibattito su questo tema è aperto, non è che lo possiamo risolvere cambiando la norma al Senato. Mi dica un'ultima cosa, Roberto Giachetti, se non dovesse passare questa norma, dovesse essere modificata al Senato, le farà un altro digiuno, visto che già la conosciamo per il digiuno per il Porcellum? In base ai principi della non violenza non faccio mai delle iniziative non violente per ottenere dei risultati per me stesso, li faccio perché ci sia un rispetto degli impegni che hanno preso gli altri. La riforma della legge elettorale è una cosa che tutti si erano impegnati a fare, io ho fatto ciò da fame perché mantenessero quell'impegno, non perché fosse approvata la legge elettorale che a me piaceva. Grazie onorevole Roberto Giachetti, le auguro buon lavoro. Allora, grazie, buona continuazione. E da Roberto Giachetti passiamo a chi si è astenuto e quindi ha fatto comunque in modo che questo emendamento passasse. Capiamo anche quali sono i reali motivi. Saluto l'onorevole Andrea Colletti del Movimento 5 Stelle. Buonasera Colletti. Buonasera a lei. Capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera. Allora, le faccio questa domanda. Se ben ricordo, voi come Movimento 5 Stelle siete contrari a questo emendamento alla responsabilità civile dei magistrati. Allora mi chiedo, perché vi siete astenuti facendo quindi poi passare questo emendamento? Per boicottare comunque in ogni caso il PD per un errore di valutazione o per voler dimostrare che la maggioranza da sola e il PD in particolare da sola non ce la fa perché al suo interno ci sono, come vogliamo chiamare, franchitiratori, dissidenti, qualcuno che la pensa diversamente? Qual è il motivo per cui avete fatto passare? Allora, dobbiamo chiarire innanzitutto una cosa. Sì. Noi eravamo in presenza di un voto segreto, quindi chi votava sì e no non si poteva verificare. Mm. Solo chi votava astenuto poteva verificarsi, perché appariva semplicemente una luce bianca per chi votava astenuto, e per questo siamo noi gli unici, qualcuno di Cell, 2-3 di Cell, che è palese che abbiamo votato astenuto. Mm. Il problema in realtà è duplice. Uno, partiamo dalla norma. La norma è scritta male e non dice quello che, o almeno dice molto oltre rispetto a quello che ha detto il collega Giachetti. Le faccio un esempio concreto per capirci meglio. Negli anni 90 c'era una giurisprudenza che diceva che circoscriveva di molto la responsabilità delle banche per i tassi usurari. C'era giurisprudenza di Cassazione. Dagli anni 2000 dei tribunali di merito invece hanno ampliato la responsabilità delle banche verso i piccoli risparmiatori e i piccoli imprenditori. Se ci fosse stata questa legge, nessun giudice sarebbe andato contro una sentenza di Cassazione per il pericolo di vedersi denunciati civilmente da delle banche che hanno fior fior di avvocati e di studi legali. Quindi in realtà la norma come scritta adesso va a favorire solo le grandi lobby e coloro che si possono permettere i grandi studi legali. Altra cosa invece è una responsabilità dei magistrati, che deve esserci ovviamente, ma deve essere parametrata a quello che succede nel caso concreto, non può essere parametrata a una vendetta da parte di alcune parti. È vero che una norma del genere non c'è in nessun paese occidentale. Nel merito invece della votazione, come detto, noi ci siamo astenuti perché in questo modo, e solo in questo modo, abbiamo dimostrato che questa maggioranza, nei temi concreti, ovvero quando non si parla di poltrone o di spartizione, è totalmente spaccata e dimostra la sua inadeguatezza. E in questo caso noi non ci stiamo a fare la stampella di questo governo illegittimo. Sarebbe troppo semplice fare delle leggi incostituzionali, quali la riforma addirittura della Costituzione o la legge elettorale, e poi chiedere a noi, quando si trovano in difficoltà, di avere i nostri voti. A questo punto noi non ci siamo. Ovviamente siamo contrari alla norma, tant'è vero che al Senato porremo rimedio, ma così noi abbiamo dimostrato che questa maggioranza in realtà non c'è più. Ecco, quindi mi ha risposto sia alla prima domanda sia a quella che avevo in mente mentre lei parlava, che appunto chiederle quindi al Senato, se siete contrari a questa norma, farete in modo da non farla passare, insomma, da modificarla. Quindi mi conferma. Questo poi dipenderà dai senatori del PD, perché ovviamente noi non abbiamo la maggioranza lì. Come però voi voterete in modo contrario per modificarla, insomma. Se è scritto così sicuramente sì, perché è una norma assurda così come è scritta. Le leggo alcuni messaggi. Dice Alberto da Cagliari: hanno fatto bene a votare la responsabilità civile per i magistrati, io se faccio fesserie mi fanno a pezzi nel mio lavoro, non capisco perché i giudici non debbano avere un sistema sanzionatorio. Poi Claudio da Torino: i giudici devono pagare per i loro errori come tutti, i politici hanno paura e vogliono tenerseli buoni, per cui aboliranno questa giusta norma. Massimo dice: mi occupo di responsabilità responsabilità civile e professionale, mi piacerebbe intervenire sui magistrati. Vabbè, di la tua, Massimo. Silvio da Bergamo, i politici hanno sempre solo una gran paura che la magistratura faccia fino in fondo il proprio dovere. Questa cosa si è vista già con le intercettazioni telefoniche. Quindi parere diverso da Silvio e molti altri sulla pagina Facebook. Guardi, di Effetto Notte. Se vuole le rispondo sul sistema sanzionatorio, perché è molto interessante. Sì. Attualmente c'è un sistema sanzionatorio che è in capo al CSM. Noi dobbiamo andare ad agire lì per una maggiore trasparenza, per andare a verificare davvero dove il CSM in realtà insabbia le responsabilità dei magistrati. Quindi dovremmo fare davvero una proposta di legge in tal senso, per andare ad agire dove bisogna agire. E non surrettiziamente per intimidire i magistrati che vogliono fare il proprio lavoro. Una norma del genere in realtà minaccia i magistrati che sono in prima linea contro, ad esempio, gli interessi delle banche o delle assicurazioni. Pensiamo ai PM di Trani, che hanno rinviato a giudizio, stanno indagando sui vertici delle più grandi compagnie, delle più grandi banche italiane, nonché sugli ex vertici di Banca d'Italia. Chiarissimo, Colletti, le chiedo solo questa cosa. Vedo adesso un'agenzia, Corradino Mineo del PD Civatiano, non è più tra i membri PD della Commissione Affari Costituzionali del Senato. L'ha deciso a larga maggioranza l'ufficio di presidenza del gruppo, che ha indicato come membro permanente, e secondo quanto si apprende, il capogruppo Luigi Zanda. Avevano fatto fuori ieri Mauro, così hanno definito insomma questa azione, oggi Mineo, perché per portare avanti le riforme, perché Mineo sarebbe minoranza. Sono i modi che hanno per silenziare le loro posizioni interne. D'altra parte Mineo oggi ha detto che è una riforma, quella del Senato, fatta degli incompetenti, come hanno detto illustri costituzionalisti. Loro purtroppo si basano solo su fare queste riforme che non servono a niente, invece di andare a agire davvero sull'economia reale dell'Italia. Onorevole Andrea Colletti, se non ci sentiamo prima, allora magari ci aggiorniamo per il voto al Senato, va bene? Perfetto, quando vuole. Grazie, buona continuazione. Buona serata. Ancora molti vostri messaggi, però mi dicono a questo punto abbiamo la pausa della pubblicità, voi potete continuare a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Noto e anche al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci sempre, Roberta Giordano con voi. Stavo leggendo ancora i vostri messaggi sulla questione del voto oggi, sulla responsabilità civile dei magistrati. Dice Paolo da Torino: era ora che si mettesse una pezza a questa anomalia unica, sarebbe bello se potessimo ora non eccedere nell'altro senso, ma un magistrato che esercita il proprio potere senza doverne rispondere in alcun modo era da pazzi. E poi invece sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sempre Arturo dice: non vorrei fosse una legge fatta apposta in previsione di un risarcimento esorbitante per Berlusconi, qui ormai c'è da aspettarsi qualsiasi gioco purché sia sporco. E un altro ascoltatore: trovate i franchi tiratori e troverete i corrotti. Insomma, non credo che sia tutto così bianco e nero, ci sarà un po' e un po'. Comunque trovo invece per niente peregrina una domanda di un ascoltatore su un altro argomento, quello della decisione della Corte Costituzionale, che dice, questo ascoltatore: se il cambio di sesso successivo al matrimonio è lecito, perché l'omosessualità non dà diritto al matrimonio stesso? Effettivamente non è una domanda per niente peregrina, anche se qualcuno può dire quelli si erano già sposati prima da uomo e donna e poi uno ha cambiato sesso, però effettivamente è una domanda che può riecheggiare nell'aria. Vi ricordo i fatti principali di oggi prima di passare al prossimo tema. La responsabilità civile delle toghe passa un emendamento della Lega alla Camera, governo battuto per 7 voti, insorgono a Associazione Nazionale Magistrati CSM, e Renzi commenta: correggeremo in Senato. Le verifiche fiscali pilotate, arrestato un ufficiale della Guardia di Finanza per mazzette volte a evitare controlli a Napoli, indagato il comandante in seconda, Bardi. Usura rinviata a giudizio in Campania, Mussari e Vigni, Iraq sempre più preoccupante e inarrestabile l'avanzata dei jihadisti. E poi Rai, la sciopero oscura la TV pubblica, proteste e dirette saltate, per il sindacato l'adesione è stata altissima. Il calcio: domani partono i mondiali in Brasile. E occupiamoci adesso invece di un paese che davvero noi nazioni occidentali abbiamo devastato con anni di guerra. Vi ricordate, no? Per intervenire contro possibili fantomatiche armi di distruzione di massa, è un paese, quello dell'Iraq, dove c'è adesso una scorribande continue di integralisti islamici, dove ci sono decine di migliaia, centinaia di migliaia di morti civili in questi anni, adesso centinaia di migliaia di persone in fuga con l'avanzata dei jihadisti, dei terroristi di Al-Qaeda. Vorrei che ci dicesse un po' qual è il quadro. Veramente sconfortante. Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Ciao Roberta, buonasera a tutti. Che cosa possiamo dire su questo paese completamente nel caos ormai da anni? Gli Stati Uniti e le altre forze si sono ritirati ormai da tempo e l'abbiamo abbandonato così a se stesso. Era in fondo un paese che tutto sommato, pur con tutti i crimini, però un suo equilibrio ce l'aveva. Le donne allora, ricordo, andavano anche all'università, adesso sono quelle che se la passano peggio, insomma, tra gli altri. Io ho visto, Roberta, tutte le epoche della storia irachena degli ultimi 30 anni, ero lì negli anni 80 quando c'era la guerra contro l'Iran, ero lì nel 91 quando c'è stata la prima guerra del Golfo, quando l'Iraq di Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait, ci sono poi ritornato moltissime volte dopo e poi ovviamente dal 2003 in poi quando ci fu l'attacco americano per sbalzare dal potere Saddam Hussein. Che cosa sta succedendo? In Iraq è in corso un dramma militare e politico con lo sfaldamento di un governo, quello di Nuri al-Maliki, assai inefficace, e di un esercito che si è adeguato senza sparare un colpo. Ma si sta anche producendo una catastrofe umanitaria che non dobbiamo trascurare affatto, cioè ci sono in fuga oltre 500.000 di iracheni che vanno peraltro a raggiungere altri 250.000-300.000 profughi siriani che arrivano appunto dalla guerra civile in Siria. Quindi un dramma molto vasto che si sta producendo per l'avanzata di questa organizzazione affiliata di Al-Qaeda, che ha colto probabilmente con la conquista di Mosul la più grande vittoria militare della storia di Al-Qaeda. Vedremo adesso quanto sarà duratura. Infatti, Alberto, possiamo dire tranquillamente che dove siamo intervenuti come forze occidentali per attaccare, distruggere il terrorismo, fomentati in primis dagli Stati Uniti, ma non sempre, per esempio anche in Libia, no? O in altri paesi, abbiamo provocato dei disastri maggiori, proprio perché poi diventano terra di conquista degli integralisti islamici, no? Beh, abbiamo provocato dei disastri immani. L'Iraq non era un paese di Al-Qaeda, ma è stata proprio un'invasione americana ad attirare i combattenti di Al-Qaeda, gli estremisti islamici che sono venuti lì per combattere gli Stati Uniti. Poi siamo andati a bombardare la Libia e anche in Libia abbiamo visto il caos che si è prodotto, ma la cosa più devastante di tutte forse è proprio la questione siriana. Perché nonostante tutte queste elezioni precedenti, gli Stati Uniti, per contrastare un regime brutale come quello di Bashar al-Assad, avevano proposto di bombardare l'anno scorso la Siria stessa. Ma quali risultati avremmo avuto? Probabilmente proprio la vittoria o l'avanzata delle forze jihadiste ed estremiste, perché proprio questa organizzazione, lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, è attivissima in Siria. Sono forti, combattono su tre fronti: il governo di Baghdad in Iraq, il governo di Bashar in Siria e persino i rivali jihadisti di Jabhat al-Nusra nella Siria stessa. Io sono reduce da un viaggio, ho fatto una settimana in Siria e posso dirvi che la bandiera nera di questa organizzazione sventola anche alla periferia di Damasco. Immaginate un intervento occidentale cosa avrebbe provocato. Grazie, è stato molto eloquente come sempre Alberto Negri. Ti ringrazio, buona Grazie continuazione. Grazie a voi, buona serata. Ciao Alberto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Adesso invece sto vedendo un dispaccio di agenzia dal titolo Riforme, due punti, Mineo, Corradino Mineo, che sapete è stato, diciamo così, allontanato dalla commissione riforme costituzionali. Mineo dice: sostituirmi è stato un autogol per Renzi e per il PD. Poi anche una frase sconsolata, critica, ma anche un pochino minacciosa. Però vi ricordo, le altre notizie sono questa decisione per gli statali e la pubblica amministrazione, mobilità entro 100 chilometri e tagli ai permessi sindacali. Il voto di oggi alla Camera sia la responsabilità dei giudici, il governo va sotto di 7 voti, il PD si spacca, Napolitano dice l'indipendenza delle toghe non è un privilegio. Verifiche pilotate, l'inchiesta di Napoli, indagato il numero 2 della finanza e intanto c'è il pressing sul governo per l'Expo e venerdì sarà presentato il decreto legge anticorruzione in Consiglio dei Ministri. La mano della Jihad sull'Iraq, ne abbiamo appena parlato, gli integralisti islamici ci prendono anche Tikrit, la città natale di Saddam Hussein, la fuga dei civili, 500.000 da Mosul, lo sciopero che oscura la RAI, proteste dirette saltate, oggi e poi conto la rovescia per i mondiali. Parliamo di Europa, anzi parliamo di olio, di regole e anche di Europa. Obbligatorio sarà il tappo anti-rabbocco per l'olio nei ristoranti entro un mese. Sanzioni da 1.000 a 8.000 euro più confisca del prodotto per chi non lo usa, questo tappo anti-rabbocco. La bottiglia di olio d'oliva sulle tavole dei ristoranti dovranno avere una chiusura che non ne consenta, cioè un nuovo riempimento. In più trasparenza a tutto campo per il consumatore e il cliente dei ristoranti, non solo in Italia. L'emendamento è di Colomba Mongello del PD alla legge comunitaria approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che impone anche l'indicazione del termine miscela per gli oli originari di più di uno Stato membro dell'Unione Europea, in modo da evitare il nome Made in Italy per oli non interamente prodotti in Italia. Sentiamo allora la deputata del PD Colomba Mongello, componente della Commissione Agricoltura di Montecitorio, al microfono di Anna Marino. Europa 24 notte. La legge salva olio fu approvata dal precedente Parlamento, io ho avuto l'onore di firmarla insieme ad altri 70 parlamentari, fu approvata all'unanimità da Camera e Senato e tuttora legge, fu contestato dall'Europa il famoso tappo antirabbocco e l'etichetta, che oggi abbiamo provveduto a mettere in sicurezza nella legge comunitaria approvandola definitivamente. Che cosa vuol dire per la gente il tappo antirabbocco? Beh, questo è importante perché finalmente quando ci sederemo ai ristoranti sapremo esattamente cosa stiamo consumando, perché la bottiglia una volta consumata verrà gettata via, quindi non può essere assolutamente sostituito l'olio che è presente nella bottiglia. Questo è un presidio di sicurezza sia per il consumatore che anche per il produttore olivicolo, così almeno ha la sicurezza che il prodotto che sta per essere consumato è realmente il suo. Che cosa impone anche la legge come indicazione su queste bottiglie? Importante l'etichetta, perché finalmente dotiamo le bottiglie di etichettatura chiara, leggibile e trasparente. Se è olio italiano deve essere scritto, se è olio comunitario il termine miscela deve essere scritto con chiarezza cromatica, in maniera tale che il consumatore sa esattamente se sta consumando olio extravergine d'oliva italiano oppure olio miscelato con oli stranieri. Quindi il consumatore saprà se l'olio che sta consumando è di origine italiana e se ovviamente non è stato più abboccato, quindi l'olio che consumeremo finalmente sarà originale. Da quando? La legge salva olio è già in vigore da un anno e mezzo. Questo provvedimento adesso sta per andare al Senato, però sappiamo che ci saranno tempi velocissimi per la sua rapida approvazione, quindi entro un mese sarà legge dello Stato. Questo è un bel segnale per il Made in Italy che noi vogliamo tutelare, quel Made in Italy di qualità, e soprattutto vogliamo tutelare la sicurezza del consumatore che ha il diritto di essere informato. E questo vuol dire anche che, diciamo, il nostro commercio è tutelato. La bottiglia antirabbocco varrà sul territorio italiano, ovviamente perché è una legge italiana, ma anche per le bottiglie italiane che noi ovviamente manderemo all'estero. Questa sarà anche una tutela per il nostro olio italiano, in maniera tale che anche i consumatori stranieri si abitueranno a questo tappo particolare che sarà a tutela del prodotto che stanno consumando. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E adesso passiamo a parlare del pallone che tra poco comincia, anzi domani comincia a roteare. E ci colleghiamo col nostro Dario Ricci in Brasile, che temo potrebbe non comprendere più tanto l'italiano, tanto immerso nel portoghese che si parla in Brasile. Sentiamo Dario, sei ancora in grado di comprenderci? Ricordo ancora le celeberrime lezioni dell'Accademia della Crusca, insomma, che per male anche tu sciorinavi ogni tanto e sulle quali ogni tanto torni, quindi quella base rimane, ma certo... Bei tempi l'Accademia della Crusca. Dario, vedo che ti sono rimasti bene impresso. Senti, allora interpretaci Pirlo che dice ai mondiali possiamo vincere. Cioè, certo, bisogna farsi forte, un po' incitarsi, autoincitarsi. Che hai sentito oggi? Adesso in questo momento siamo divisi tutti tra ottimisti e pessimisti, perché come sempre capita c'è uno scetticismo montante intorno a questa nazionale, mentre invece i protagonisti sentiamo che professano voglia, ottimismo, determinazione, e quindi la risposta ce l'avremo dal campo sabato a Manaus. Intanto c'è un paese che guarda con apprensione, gioia, voglia di far festa, ma anche molte preoccupazioni all'inizio finalmente di questa Coppa. No? Quindi sabato tanto, la prima partita per l'Italia? No, non è l'Italia. Sì, sabato notte, mezzanotte. Sabato notte, a mezzanotte, tra la notte tra sabato e domenica italiane, a Manaus, le porte dell'Amazzonia contro l'Inghilterra. Ecco, oggi Andrea Pirlo ha detto che ce la possiamo fare, se lo dice lui, che comunque la Coppa del Mondo già l'ha sollevata al cielo nel 2006 e qualche altra cosina nel palmarès ce l'ha, e tra l'altro è fresco pure di rinnovo contrattuale fino al 2016, ha annunciato proprio oggi con la Juventus perché vuole dare il medio assalto alla Champions, insomma io un po' mi fiderei, ecco, pur con tutte le cautele del caso. Certo, Dario, mi dicono che abbiamo Pirlo, sentiamo Pirlo? Pirlo? Ti rifaccio la stessa domanda, l'Italia può vincere il mondiale? Ma certo che può vincere, quando si gioca, almeno quando gioco a calcio, gioco sempre per arrivare fino in fondo e non mi accontento di sorpassare il turno, arrivare agli ottavi finali, l'obiettivo deve essere sempre il massimo e quindi riuscire ad arrivare fino in fondo. Abbiamo una squadra molto competitiva e cercheremo di dare il massimo per raggiungere questo obiettivo. Dario, tu stai preparando fuochi d'artificio, fischietti, armamentario vario per incitare sabato? Guarda, qui come diciamo per distacco professionale l'aspetto critico prevarrà sul tifo, però è chiaro che puntiamo a prenderci 3 punti con gli inglesi in partita fondamentale, quindi assolutamente speriamo di vincerla, speriamo anche di giocare bene. Alla peggio meglio pure vincerla pur giocando male, insomma, certo. Ecco. Senti, ci sarà la solita esuberanza brasiliana lì, di balli, di cose per inaugurare? No. Nella cerimonia sì, qui in particolare, come ormai avrete capito, come ci stiamo sforzando di comunicare, siamo come la Porciuncola d'Assisi, Mangaratiba e dintorni sono un luogo ameno, ben lontani dagli stereotipi che appiccichiamo ben volentieri al Brasile, quindi c'è una sobrietà anglosassone rispetto a questa coppa. Molto bene. Qui in questa zona, mentre tutto il resto del paese è pronto a far festa. Simo rigerato con Dario Ricci, non andiamo troppo, non esageriamo, non strabordiamo, noi invece stiamo per strabordare, quindi ti saluto Dario Ricci. Ciao Dario, noi ci sentiamo tra pochissimo.